siamo ritornati in diretta, sempre 451 frammenti sonori, dopo l'interruzione del GR di Radio Popolare Network, che oltretutto ha concesso anche una larga pagina ancora una volta per farmi del male alla finale della Coppa del Mondo. Io devo capire se è delizia olandese. No, non c'entra, no, è che pur qualcosa del genere, insomma, antipatie per la Spagna. La Spagna è una squadra improponibile per me, però al di là di questo dispiace, insomma, un paese così piccolo che tre volte è arrivato in finale non è riuscito mai a vincere. Sul politico vabbè, dai, devo tu reinventarmi qualcosa, vabbè, dai, me l'avevo battezzata fuori la guerra civile spagnola. Durruti, viva Durruti, viva gli spagnoli anarchici. Hai ragione, c'è anche quell'aspetto. Vabbè, sai, se volessimo andare a scavare poi troveremo tante di quelle robe. Vabbè, al meglio di... che non scaviamo, meglio che anche perché sull'Olanda ci sarebbe da dire un po' di cose. Vabbè, è stata colonialista e ha fatto delle cose terrificanti anche l'Olanda, ma anche la Spagna, insomma. No, vabbè, insomma, qua tra i paesi occidentali si sa ben poco. Vabbè, ma insomma, stiamo parlando di una partita di calcio. Sì, ma stiamo anche sotto 80 gradi e quindi deliriamo. Questa musica si deriva per forza. Ecco, al di là dei campionati mondiali di calcio che rimangono sempre nella nostra vita, purtroppo, direi anche. Sì, poi non siamo snob, insomma, ce li vediamo, ci piace. No, ma infatti il calcio, insomma, ci piace, anche se fa schifo poi tutto quello che gira intorno. Ecco, però... e tu sei tra l'altro anche un ottimo, un grande appassionato. No, ma anche no, vabbè, a parte che ne ho sai. Ho giocato, ex giocatore. Ex ormai sono diventato ex di un sacco di cose. E quello, è quello, è preoccupante. Quello è diventato molto preoccupante alla mia età, comunque. Vabbè, andiamo oltre, rientriamo. Dunque, per coloro che si fossero messi in ascolto solo in questo momento, probabilmente c'erano delle radio fuori, perché non so, ascoltare radio in casa con sto caldo non conviene. O avete l'aria condizionata, che però fa anche male, oppure insomma, ci ascoltano dal blog, magari. Speriamo. No, mi sembra di sì. Ah, ricordiamo il blog. 451 frammentisonori.noblogs.org. Bravo. Org mi mancava. Org. Allora, e abbiamo ascoltato per rientrare 451 frammenti sonori anche stasera, ricordiamo ancora Cinematica 2, dunque come la pellicola impressionò come il movimento della pellicola impressionò gli anni 60. Gli anni 60. Vabbè, mi sono inventato la musica, va bene lo stesso, ma sì, dai. E la prima parte l'abbiamo strutturata con il titolo Cinematica 2 come l'attuale seconda parte. La prima parte mandata in onda 2 settimane fa era incentrata più squisitamente sull'aspetto dei film, mentre questa puntata l'abbiamo pensata e battezzata legata soprattutto ai grandi compositori più importanti, anche qualche compositore tra virgolette minore, meno conosciuto, ma incentrata sugli autori. La prima parte l'abbiamo già estrapolata e mandata in onda e strutturata con il grande Piero Piccioni insieme a Piero Umiliani, e siamo arrivati in questa seconda parte con questo brano di apertura importantissimo. Ha vinto oltretutto una marea di premi nel 1962 quando è uscito, era la prima colonna sonora del grande Rizzo Ortolani, anch'egli come Piccioni e Umiliani facente parte di tutta una scena jazzistica, le band di jazz anni 50 che poi portarono anche questa ventata del linguaggio jazzistico in Italia attraverso le colonne sonore, ed era appunto un brano che ebbe un grande successo, che rimase una colonna sonora quasi sottesa in tutta l'Italia degli anni 60, 70, 80, ma fino ai giorni nostri, perché è un brano conosciutissimo ed era il brano del titolo di testa di Mondo Cane, film terrificante di Jacopetti, Cavara e Prosperi del 1962. E qui volevamo dare un tributo, insomma, al primo brano, al brano tra i più famosi di Ortolani, per aprire la pagina dedicata proprio a Rizzo Ortolani. Sì, Rizziero Ortolani, questo è il vero nome, poi appunto Riz, insomma, più internazionale sicuramente. C'era anche questa voglia di internazionalizzare. Riz Ortolani ci riuscì appunto soprattutto con Moore, e poi Ortolani, avvicinandosi anche a un altro grande che dopo metteremo, sicuramente si è incattivito non più tematiche molto aeriose, anche ad esempio quelle del sorpasso, un jazz frenetico sì, ma anche con grandi aperture. Diciamo che il mondo di Ortolani, il mondo musicale, si è incupito e quindi ha prestato prestato servizio a cinema con horror, ad esempio il Piccolo Grande Gioiello, non so se Vizio un Paperino, sì, uno dei film importanti che io non penso, anche tu Elisa non sei d'accordo, non considererei più B-movie, perché insomma no, assolutamente notevole di Lucio Fulci, non ci vuole Quentin Tarantino a dirlo, certo, insomma, certo. Basta vedere il film, musiche straordinarie che appunto prendiamo da quel meraviglioso film, poi un film minore, Chi sei, insieme a un Michelizzi, che appunto andiamo a trovare un minore che appunto lavora insieme a Ortolani, anche lui dentro questa rete paragezzistica o propriamente jazzistica italiana, e così andiamo dentro appunto un mondo che si fa scuro con Non si servizio un Paperino, e poi si riapre in maniera di nuovo jazzata, quasi con una forma di trip hop ante litera, ma appunto con Chi sei, Rizzo Ortolani. Sì, ok. No, ma che ne so. Chi sei? no one will help you. I know you're sad. There's no hope. There's no hope. There might be someone who can help. Look for him. Find him in the darkness. Maybe he can help you. Maybe. But there's no hope. No hope. You know you're all alone. No one will help you. Yo. Bene, siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato il grandissimo Ritz Ortolani con un altro maestro della musica dei poliziotteschi all'italiana degli anni 70, il grande Stelvio Cipriani, che abbiamo preso da Ecologia di un delitto dal 1971, La polizia alle mani legate 74, L'iguana dalla lingua di fuoco 71, La mano spietata della legge 1970. Stelvio Cipriani è sicuramente uno dei compositori più importanti della scena degli anni 70, non a caso l'abbiamo inserito tra gli autori importanti di questa puntata di Cinematica 2, musicista che appunto ha è stato uno dei compositori più importanti delle colonne sonore di molti film degli anni 70, ha iniziato a comporre per film dal 1966, ma diciamo che l'esplosione è stata proprio nel 1969 con diversi film che poi hanno avuto sicuramente un seguito in tutti gli anni 70. Ci ricordiamo, prego. Anonimo veneziano, famosissimo, infatti quello che conoscono di più, ma noi abbiamo voluto invece utilizzare altri film meno conosciuti ma sempre molto interessanti, in particolare tutti i film che abbiamo citato sono film sicuramente da rivedere, perché Cipriani, bisogna dire, ha sempre accompagnato le proprie musiche a dei film non proprio devastanti, ecco, ci sono stati pochi casi, a differenza del grande Umiliani che spesso ha dovuto musicare delle cose veramente improponibili. E dal grande Stelvio Cipriani andiamo a trovare un altro personaggio meno conosciuto ma che è presente anche in film importanti, oltretutto poco tempo fa, anzi in realtà due giorni fa, c'è stata la rappresentazione all'interno del Cinema all'Aperto di Bologna di un film, La nave va, di Federico Fellini, con la sceneggiatura anche di Tonino Guerra, e lì le musiche erano appunto dello stesso personaggio che adesso andiamo a scoprire. Gianfranco Prenizio, che appunto come titoli di testa importanti e musiche dentro il film sicuramente annovera una grande collaborazione con Federico Fellini, poi alterna insomma varie faccende tra B-movie, qualche western o qualche spizzico, d'altronde qua stasera non ce lo siamo ricordati, però è bene farlo, ovvero vari arrangiamenti per la musica leggera. Molti degli autori che stiamo mettendo questa sera hanno lavorato con musicisti che vendevano anche molti dischi. Tra l'altro anche Ritz Ortolani, prima ad esempio c'è stato un piccolo passaggio da Non si servizia un paperino, in realtà quel tema lì è bello esposto dalla splendida voce di Ornella Vanoni, ma tantissime veramente sono le collaborazioni, non soltanto di Prenizio, di Ritz Ortolani, ma dello stesso Umiliani, dello stesso Piccioni, con le varie Mina e con insomma le musiche leggere di quel periodo italiano che tra l'altro insomma avevano uno spessore, una qualità musicale veramente notevole, quindi non facevano neanche troppa fatica secondo me a lavorare con la musica leggera, cosa che invece dagli anni 80 in poi sarà piuttosto impegnativa, se non addirittura degradante per molti, visto appunto lo stato dell'arte delle musiche leggere italiane. Gianfranco Prenizio, quindi, che lo andiamo a prendere da uno storico poliziottesco, appunto si è cimentato anche in queste situazioni, come d'altronde Cipriani, prima ricordava Eliseo, che ha fatto insomma grandi vari film poliziotteschi, e Milano Violenta, film veramente notevole di Lenzi, uno dei film più belli sicuramente di quel periodo legato al genere poliziottesco, notevole, con un Thomas Mineam veramente d'antologia, che tra l'altro l'altra sera ho visto in versione diabolica in Traffic di Soderbergh. Ah sì? Sì, perché poi Thomas Mineam è molto considerato negli Stati Uniti. Questo è vero, ha fatto molti film con Stone, con Scorsese, eccetera eccetera. Vabbè, Gianfranco Prenizio, quindi, dallo splendido Milano Violenta. Thank you. Thank you. Beh, siamo andati a ritrovare un Fidenco con un sodalizio, così tra i più curiosi della storia del cinema, visto che è uno degli artigiani più sconquassati, ma anche più simpatici. Abbiamo voluto un sacco di bene a Gio D'Amato, Ariste De Massacesi, sia come tecnico del cinema, quindi maestro della fotografia. Lo ricordiamo ad esempio per uno splendido film, Cosa avete fatto a Solange, con veramente una fotografia eccezionale. Poi per film sgangheratissimi e assurdi, veramente roba da, non so, da manicomio criminale per alcuni aspetti, e poi per alcune perle dell'horror B-movie. Ricordiamo tutti lo splendido Buio Omega. Assolutamente, Buio Omega è un film da vedere. Antropofago, che è una piena follia. E poi Emmanuel, che a mio avviso è molto migliore di quello che ebbe poi successo come Emmanuel Bianca, il celebre film anni 70 con vari numeri, e sono arrivati, non so, al 17esimo, forse la fanno ancora, Emmanuel, quella. Questa qua invece con una M, era Emmanuel appunto Nera, e vedeva il sodalizio, un sodalizio appunto, come dicevamo prima, piuttosto curioso, tra Nico Fidenco, che usciva dalla musica leggera italiana, seppur con grande anche trasporto per il jazz, e anche lui è uscito insomma dalle jazz band, però molto più famoso per le musiche leggere, e tra l'altro anche cantate direttamente da lui, legato a Un granello di sabbia, proprio uno dei suoi pezzi più celeberrimi. Alla fine degli anni 60 si lancia nel mondo delle musiche per cinema, anche per cimentarsi in maniera più libera con una fantasia musicale assolutamente notevole, quella di Fidenco, e trova poi sulla sua strada un folle che lasciava veramente libertà di fare quello che si voleva, ovvero Ariste De Massacesi, che con Emmanuel così sperimenta una sorta di esotismo tinto di psichedelia alcune volte, di erotismo, di snuff movie finti, veri, non si capisce bene. Poi ci sono varie leggende, cioè, ad esempio su Emmanuel in America, che abbiamo ascoltato appunto e che abbiamo per certi versi ancora in sottofondo, anche se poi dal blog non si sente tanto in sottofondo, in realtà poi in diretta avete più modo di sentirli sottofondo. Vedremo l'anno prossimo di curare questa faccendina, che non è poi così simpatica. E appunto Emmanuel rimane un po' il marchio di fabbrica di questi due grandi artigiani, uno della musica e uno del cinema. Un altro film che li vedrà protagonisti, sempre dentro Emmanuel, Perché violenza alle donne, anch'esso molto divertente, con spunti anche interessanti. Anche così delicatamente attenti al costume che stava cambiando, non così grossolani come magari si vorrebbero presentare. Poi vabbè, le carriere chiaramente anche dei due avranno anche un sodalizio, tra l'altro anche nel periodo hardcore di Gio D'Amato. Fidenco lo seguirà anche per i primissimi film, poi ovviamente si stancherà, anche perché soldi veramente non ce n'erano più, e quindi chiaramente la filmografia di D'Amato andò veramente allo sfacelo, con un film sempre più degradati e degradanti anche, come racconta poi tra l'altro lui. Ma le musiche di Fidenco, appunto, finché sono state unite a questo D'Amato così tra virgolette avventuroso degli anni, curiosamente avventuroso degli anni 70, sicuramente si cibano di grande fantasia, anche con alcune parti, avete sentite, anche un po' elettroniche, che così andavano un po' a inventare mondi nuovi, esotismi anche in questo senso, esotismi chiaramente di stampo analogico elettronico. E da Fidenco a un grande che non potevamo non mettere questa sera. Assolutamente, Armando Trovajoli, uno dei più, diciamo, grandi dal punto di vista dell'età degli autori che stiamo inserendo stasera, nato nel 1917 e oltretutto ancora attualmente in vita. È stato un musicista assolutamente importante, anche lui cresciuto nel Conservatorio di Musica di Santa Cecilia in Roma, e già dagli anni 30 inizia a suonare nelle orchestre comunque di musica jazz e che erano quasi clandestine italiana dell'epoca, tra il 37 e il 39, la famosa orchestra di Sesto Carlini. Successivamente poi inizia a portare avanti il discorso jazzistico anche con la musica leggera, tant'è che comunque ha lavorato anche appunto come compositore di musica leggera, per poi arrivare fondamentalmente a delle incisioni discografiche connesse anche lui a molti film che musicherà. Musicherà appunto partendo addirittura da Riso Amaro del 1949, un film assolutamente fondamentale della storia del cinema del dopoguerra. Tra l'altro collaborando con un gigante come Goffredo Petrassi, uno dei nomi più importanti della musica contemporanea. Infatti, la musica contemporanea, bravo che l'hai individuato, sì. E poi successivamente dagli anni 50 continua a musicare i film in maniera sempre però non esagerata, cioè non è che fa colonne sonore modello catena di montaggio, sempre con 2-3 film all'anno musicati, per poi arrivare fino agli anni 60, dove cominciano a aumentare tra gli anni 60 e 70 le musiche musiche per film, e chiudere diciamo il suo percorso negli anni 80 e nel periodo maggiormente fulgido anche del cinema italiano, della commedia all'italiana. Lo andiamo appunto ad ascoltare stasera da un film assolutamente fondamentale di Dino Risi, film meraviglioso, I Mostri del 1963, che lui stesso musica interamente nel corso appunto del film stesso. Dunque andiamocelo a sentire, dai Mostri di Dino Risi 1963, Armando Trovajoli. Thank you. Thank you. Beh, un omaggio doveroso a una grande delle musiche del cinema, ovvero Nino Rota, il celeberrimo Nino Rota. Prima avevamo citato Fellini con Il Minore e Gianfranco Plenizio. Beh, il maggiore compositore legato appunto al maestro romagnolo sicuramente Nino Rota, già precocissimo compositore, all'età intorno agli 8 anni si divertiva già a comporre le sue prime musiche, scriverle anche in un certo qual modo, a dirigerle, e avrà modo insomma di studiare soprattutto la musica classica, perché usare la plurale, la musica classica, quindi a singolare, e poi appunto troverà questo splendido sodalizio con Federico Fellini per musiche insomma che sono dentro le corde del un paesaggio sonoro, musicale, culturale italiano. Basta citare insomma il tema di Amarcord, della Strada, ma di tantissimi altri film. Abbiamo preso però un Nino Rota un po' strano, quasi in odor di elettronica e in odor in un certo qual modo di delirio. In effetti, Tre passi nel delirio, anche qua un Fellini che si sposta, un Fellini che si avvicina al cinema di genere, all'horror, lo fa a sua maniera, con il suo strano mondo tra barocchismo e onirismo spinto, e Nino Rota va a trovare appunto queste arie tra sempre questo valzer lunare, questa giocosità un po' vagamente malinconica, un po' come poi sarà il cinema, ed è tuttora insomma fermo, meravigliosamente fermo dentro la nostra immaginazione, quello di Federico Fellini. Tra l'altro poi Rota sarà anche insomma protagonista di due altre pellicole fondamentali come Il Padrino 1 e Il Padrino 2, quindi con un altro grande regista geniale come Francis Ford Coppola, e lì avrà modo anche di farsi conoscere ulteriormente all'estero, oltre che con già il grande maestro italiano appunto. E così abbiamo voluto unire Rota, perché tra l'altro Trovajoli, oltre ad avere avuto l'imprinting jazzistico e poi dopo con Goffredo Petrassi, ha avuto appunto già con Anna il film di Lattuada, di taglio neorealista, quindi uno dei cinema più importanti di sempre, quello neorealista italiano. Avrà proprio un modo di confrontarsi, lui molto giovane, con già l'affermato Nino Rota, appunto collaboreranno insieme per le musiche del film di Lattuada del 49, se non sbaglio, 50, Anna appunto. E quindi era un omaggio a Rota, indirettamente anche appunto all'unione con Trovajoli, altro omaggio che non si può non fare, probabilmente il maggiore di tutti quanti, dentro veramente il DNA musicale italiano, ovvero Ennio Morricone. L'abbiamo detto anche in Simbiosi. Beh, non poteva mancare, chiaramente il più grande in assoluto, e qua veramente non abbiamo grossi dubbi. È un Morricone che andiamo a estrapolare da due, diciamo, visioni musicali un po' differenti, seppur intrecciate. Prima di tutto andiamo a prendere da una compilazione che poi lavora ovviamente sempre sul piano delle colonne sonore di film, però sempre più dentro un'atmosfera di un Morricone anche da onirico, da viaggio, da allontanamento, da il Morricone diciamo anche più conosciuto a livello di aree musicali, di melodie, di strutture compositive. E questa compilazione Mondo Morricone, un ottimo lavoro oltretutto, costituito in 3 CD, e abbiamo selezionato da questa parte di Morricone dei lavori che sono tratti dal film Una lucertola con la pelle di donna, splendido lavoro oltretutto di Fulci del 1970, e poi successivamente invece il film La donna invisibile del 1969. Poi l'altra parte che andremo a sentire sarà tratta invece da un Morricone più dissonante, legato ovviamente sempre al discorso filmico, ma molto più sperimentale, molto più vicino ai progetti musicali che lui stesso ha costruito negli anni 60-70, in particolare il progetto Nuova Consonanza, di cui lui è stato uno dei promotori e dei fondatori di questo progetto di musica sperimentale, che spaziava a 360 gradi tra elettronica, jazz e contemporanea e improvvisazione. E andremo a prendere invece appunto due colonne sonore, due parti musicali tratte da alcuni film, esattamente il film Il gatto a nove code, splendido lavoro di Dario Argento del 1971, e successivamente andremo invece a trovare il film ancora, vedete, casualmente una parte sperimentale legata a Una lucertola con la pelle di donna, sempre del 71, e poi il pezzo finale, che sarà invece tratto dal film Il serpente del 1973. A questo punto andiamocelo a sentire. Thank you. Abbiamo chiuso in maniera abbastanza inquietante. Alla 451 frammenti. Allora, 451, il nostro marchio di fabbrica, diciamo, una fabbrica un po' malata, un po' decadente anche. Una fabbrica che sfascia e non costruisce niente. Una fabbrica che è smantellata, che vorremmo smantellare. Peccato che poi la fabbrica sociale, quella che ci viviamo, è una fabbrica devastante ulteriormente. Ma tu vorresti anche smantellare quella di 451? Tutte le fabbriche. Anche questa? Sì. Al massimo costruire soltanto degli opifici. Degli opifici, sei sempre un po' ritratto verso il passato. Sempre, sempre. Ma com'è? Ti verrà il torcicollo. E ce l'ho già. Per quello. C'ho la cervicale. Senti, comunque abbiamo chiuso ovviamente in maniera abbastanza dissonante, come avevamo preannunciato, due brani, anzi tre, che fanno parte comunque sempre di colonne sonore di film che abbiamo citato prima della messa in onda dei brani di Morricone, ma per dare appunto anche una luce differente, un suono differente anche alle musiche dei film che abbiamo pensato e studiato per queste due trasmissioni. Diciamo una chiusura che poi è anche un'apertura per ulteriori altre trasmissioni su queste materie. Tu magari stai ad agosto, no, dico una trasmissione. Una trasmissione tra qualche mese, vediamo. Tra qualche, perché adesso sai che devi salutare. Adesso bisogna, sai, che tu devi salutare. Sì, no, ma bisogna dire buona estate. Mi sembra sempre la solita presa in giro l'estate. Comunque, tu sei uno però che si lamenta dell'estate, però te la fai poi. Sì. Quest'anno forse non lo so, perché hai una faccia veramente brutta. Quindi... quest'anno una faccia brutta, vado su un eremo. E al di là di questo. Vai a trovare Franco Battiato. Ah, non è su un eremo? No, se c'è Franco Battiato non vado. In pericolo di eremo, no. Franco. No, non mi piace. Vai da solo. Vado da solo, al massimo con. Non mi chiami, telefoni ogni tanto. No, al massimo con un piccolo porco spino, mi porti dietro. Ah, dove i piccioni viaggiatori? Il porco spino viaggiatore. Sì, ah, no, niente, tu tieni lì e mangia, lascia lì, non fa rumore. Ma una volta però eri per i sassi tu. Beh, ma i sassi li trovo su poi in montagna, sull'eremo. Pensavo ti facessero ancora grande compagnia i sassi. I sassi sono importanti, secondo me è il futuro dei sassi. È il futuro dei sassi. Non muoiono mai i sassi. I sassi non muoiono mai. Sono immortali. Bravo. Come te poi d'altro. Hai capito finalmente. In realtà sono un afflusso e un riflusso. Tutto insieme, un eterno ritorno. Un eterno ritorno, sei fuori da tutto. È un, sì, un ciclo, un mantra, ciclo, riciclo. Sì, sì, basta, tutto, stiamo delirando proprio da 36 gradi alla 36, luce. Magari, più 36, magari. 36, vabbè, 48. Ecco, dentro sì. Va bene, ovviamente facciamo a tutti un saluto, un in bocca al lupo. Diteci, crepi il lupo. Perché non possono chiamateci dirlo. Chiamateci e diteci crepi il lupo. Ovviamente sì. La trasmissione sarà online, non so tra quanto, però comunque sarà online sul blog di 451 Frammenti Sonori. Ci sarà anche un piccolo omaggio che faremo a chi? A te. A me? Sì, un piccolo cameo. Ma un omaggio, che ne so, floreale? No, un omaggio dentro il sito troverai. Ah, proprio su di te. Guarda che forse lo faccio io su di te. Va bene, ok, allora non faccio niente. Lo sapevo. No, perché io già mi devo. Tu sei furbo, sai. Mangi pane e volpe la mattina. Sì, va bene, allora. Cinghiali. E anche i cinghiali. E facciamo un saluto, ovviamente 451 Frammenti Sonori finisce qui, almeno per quest'estate. Rientreremo a settembre, ve lo comunicheremo a chi è interessato. Anche. Non fare subito che anticipi, poi non viene a settembre. Comunicheremo tramite il blog. Tramite il blog? Solo il blog. Sì, se no magari telefoniamo uno per uno. A uno per uno? Sì, guarda che iniziamo domenica prossima. Fate bene, bravi, buonanotte, ciao. Ma secchio anche. Buon'estate, per quello che posso significare.